Ad alta voce, Valerio Binasco legge Una notte del 43 di Giorgio Bassani. Quarta puntata. Immaginavano. Penetravano, immaginando, dentro l'appartamento che sovrastava la farmacia, dove nessun ferrarese, inclusi gli amici di loggia del defunto dottor Francesco, aveva mai messo piede una volta sola. It makes a cloudy day sunny. Una scaletta a chiocciola collegava il retrobottega al piano di sopra. E lassù c'erano soltanto quattro stanze, in pratica. Un tinello, un salotto, una camera matrimoniale e infine la stanzetta che Pino, dopo averla occupata da ragazzo, era tornato a occupare da quando lo aveva colpito la paralisi. A forza di pensarci, era come se l'appartamento lo conoscessero a menadito, al punto di riuscire a indicare a quale parete del tinello fosse appeso il ritratto fotografico di Bilancino montato in una pesante cornice dorata dell'Ottocento, o di descrivere la forma del lampadario centrale che faceva convergere sul panno verde del tavolo e sulle carte da gioco del solitario di ogni sera un lume bianco, fortissimo, o di raccontare dell'effetto che facevano, sparsi qua e là, ma con maggiore frequenza nella camera matrimoniale, i mobili e gli oggetti di gusto moderno introdotti dalla giovane signora Balirari, o di diffondersi sulla stanzetta attigua alla camera matrimoniale, dove, subito dopo cena, Pino si ritirava per dormirci, con un lettuccio di ferro in un angolo, contro una parete una piccola scrivania, contro la parete opposta un armadio, con ai piedi del letto, ricoperta di stoffa di lana scozzese a quadri rossi e blu, la grande poltrona dallo schienale regolabile, che ogni mattina la moglie trasferiva davanti alla finestra, piena sempre di luce del tinello, e sulla quale Pino sedeva poi fino a sera. You go around willy-nilly. Volendo, sarebbero arrivati a nominare uno per uno gli autori dei libri contenuti nella scansia a vetri posta a fianco della porta presso il radiatore del calorifero. Salgari, Verne, Ponson de Terrail, Dumas, Mayne Reid, Fenimore Cooper, eccetera. Fra gli altri libri c'erano anche Le avventure di Gordon Pym di Edgar Allan Poe, in un'edizione che mostrava in copertina un grande fantasma bianco, armato di falce, ergente sia picco sopra una piccola scialuppa da baleniere. Se non che quest'ultimo volume non stava affatto dietro i vetri della scansia insieme coi rimanenti, bensì capovolto sul ripiano del comodino, accanto a un grosso album da collezionista di francobolli, a un fascio di matite colorate tenute dritte dentro un bicchiere, a un temperino da pochi soldi, a una gomma per cancellare mezzo consumata, posato in modo, cioè, il volume, che lo spettro della copertina, pur continuando a essere presente, a essere lì, fosse invisibile, non facesse più la minima paura. Ma non bastava. Dov'è che vai? Aveva domandato Pino la sera del 15 dicembre, levando il capo dal solitario. Alzatasi da tavola, la moglie Anna si dirigeva già verso la porta. Ed era stato dall'ombra del corridoio, in fondo al quale si apriva la botola della scaletta a chiocciola, che gli era giunta la voce calma di lei. Dove vuoi che vada? Scendo da basso a chiudere. Chi lo sa? Forse lui non l'aveva ascoltata la radio nel primo pomeriggio con la trasmissione da Verona. Certo è che alle 9, quando i rintocchi dell'orologio del castello si erano spenti sulla città intera con la lenta dolcezza di una benedizione, pareva normale ritrovare Pino già rannicchiato nel suo lettuccio di ragazzo, le coperte tirate fin sopra le orecchie. Chiudere gli occhi, dormire, sentendo la moglie alzarsi da tavola per scendere in farmacia. A quell'ora c'era sempre da fare qualcosa giù da basso, tirare i conti della giornata e da ultimo, calata alla sala cinesca, chiudere la chiave dall'interno. Scorgendola da dietro, sul punto di varcare la soglia del tinello, così grande, bella e indifferente, a cos'altro se non a questo Pino avrebbe dovuto pensare? Sprofondarsi nel sonno. E quella sera, magari, ancora prima del solito. Immaginavano anche il resto, naturalmente. Tutto quanto il resto. Vedevano gli 11 uomini allineati in 3 gruppi distinti contro la spalletta della fossa del castello. L'andiriviene dei legionari in camicia azzurra nello spazio compreso tra il portico del caffè della Borsa e il marciapiede opposto. La smorfia disperata dell'avvocato Fano quando, un attimo prima della scarica, aveva gridato rivolto a sciagura, intento un poco in disparte ad accendersi una sigaretta: assassino. Quella gran luce, quell'incredibile chiaro di luna che a partire da mezzanotte, girato improvvisamente il vento, aveva fatto di ogni pietra della città un pezzo di vetro o di carbone. E Pino Barilari, infine, che soltanto il grido dell'avvocato Fano era riuscito a strappare all'ultimo momento dal suo duro sonno di ragazzo, appiattato ora lassù, tremante sulle sue grucce, dietro le lastre della finestra che sovrastava la scena. E questo così, per mesi e mesi, per tutto il tempo che occorse alla guerra, dal dicembre del 43 al maggio del 45, per risalire adagio la penisola italiana. Come se l'immaginazione collettiva avesse bisogno di ritornare sempre là, a quella notte tremenda, e di riavere uno per uno dinanzi agli occhi i volti degli 11 fucilati, quali nel punto supremo il solo Pino Barilari li aveva avuti. Vennero da ultimo la liberazione e la pace. E per molti ferraresi, per quasi tutti, l'ansia improvvisa di dimenticare. Ma si può dimenticare? È sufficiente desiderarlo? Nell'estate del 46, quando nel salone delle conferenze dell'ex Casa del Fascio in Viale Cavour ebbe inizio il processo contro una ventina di presunti autori del massacro di 3 anni prima, la più parte veneti pescati nel campo di concentramento di Coltano e nelle prigioni, e quando poi rintracciato sotto falso nome nell'alberguccio di Colle Valdelsa, dove si nascondeva dal giovane e attivissimo segretario provinciale dell'ANPI Nino Bottechiari, anche sciagura fece il suo ingresso nel gabbione degli imputati. Quest'ultima parve a un tratto l'occasione più propizia perché sopra il passato fosse messa finalmente una pietra. Verissimo, purtroppo, sospiravano. Nessun'altra città d'Italia settentrionale aveva dato come Ferrara così numerosi aderenti alla Repubblica di Salò. Nessuna borghesia era stata così pronta a inchinarsi ai tetri vessilli delle sue varie milizie e corpi speciali. Eppure sarebbe bastato ben poco, in fondo, perché l'errore di calcolo che tanti avevano compiuto sotto l'incombere di avvenimenti d'eccezione, quel semplice umano sbaglio che i comunisti del luogo, insediatisi in municipio dal 45, tendevano adesso a trasformare in perpetuo marchio d'infamia, diventasse insieme col resto nient'altro che un brutto sogno, un incubo orrendo da cui svegliarsi pieni di speranza, di fiducia in se stessi e nel futuro. Sarebbe bastata la condanna esemplare degli assassini e della notte del 15 dicembre 43, di quella notte decisiva, fatale, sarebbe stato cancellato rapidamente ogni ricordo. Il processo andava avanti a rilento, nel caldo e nella noia, suscitando nel pubblico che accorreva in folla a tutte le sedute un senso crescente di inutilità e di impotenza. innervosita e messa a disagio dagli altoparlanti collocati nel viale lì fuori, con diramazioni che arrivavano fino al centro, in pieno corso Roma, la corte interrogava uno dopo l'altro i detenuti. Ma questi ultimi, da dietro le sbarre del gabbione che aveva trovato posto lungo un fianco della sala fra due finestre, rispondevano sempre le stesse cose. Nessuno di loro aveva partecipato alla spedizione punitiva del dicembre del 43. Nessuno di loro, anzi, era mai stato a Ferrara. Apparivano tutti così sicuri di non aver nulla da temere, che qualcuno osava addirittura scherzare. Ci fu per esempio un tale, uno di Treviso, Bruno, coi capelli lunghi, riccioluti e la grossa mascella sporca di barba, il quale ammise che sì, effettivamente a Ferrara una volta lui c'era stato, ma 20 anni prima in bicicletta e per trovarci la fidanzata. Battuta questa che non mancò di strappare al presidente, sempre incline a sottrarsi a quell'aura di giudizio popolare, rivoluzionario, che si era tentato di conferire al processo. Se aveva consentito a tenere il dibattito nel palazzo dell'ex casa del fascio, così si era espresso il primo giorno, era stato solo perché la sede del tribunale, semidistrutta da un bombardamento del 44 e in via di ricostruzione, non poteva tuttora essere adoperata. Un sorriso arguto e bonario di tipica stampa napoletana. Riguardo a Sciagura, non soltanto anche lui negava qualsiasi partecipazione diretta o indiretta al fatto del 15 dicembre 1943, ma fin dal primo momento che i carabinieri lo avevano messo dentro la gabbia, non si era lasciata sfuggire occasione per manifestare, insieme col più vivo rispetto per la corte chiamata a giudicare il suo operato, il suo profondo disprezzo nei confronti della folla che laggiù gremiva lo spazio riservato al pubblico, nel cui comportamento, disse a un certo punto, potevano essere visti chiaramente gli effetti dell'attuale stato di cose. Dunque era così, soggiunse, con l'odio fazioso, con la sete di vendetta che traspariva da ciascuno di quei volti, che si intendeva realizzare la tanto auspicata e auspicabile pacificazione nazionale. Questo il clima di libertà che si aveva voluto riservare alla corte, al fine di porla in grado di emettere un giudizio equanime, sereno, su un uomo come lui, reo esclusivamente di essere stato un soldato al servizio di un'idea? Non si trattava che di fumo negli occhi, di manovre divagatorie architettate per prender tempo e impedire che il processo, assunto un tono esageratamente giudiziario, finisse col danneggiarlo nella stessa misura che se si fosse trattato di un processo politico. «Io fui il combattente di un'idea», continuava a ripetere compiaciuto, «non già lo sgherro di un sistema o il servo dello straniero», oppure malinconico. «Adesso tutti dicono male di me», e non aggiungeva altro. Ma ogni volta era come se insinuasse che no, non si illudessero i suoi persecutori odierni di far dimenticare, condannando lui, quello che ieri erano stati. Tutti, al pari di lui, erano stati più o meno fascisti, e nessun verdetto di tribunale sarebbe mai riuscito a cancellare una verità come questa. Di che cosa lo si incolpava poi? Dopotutto partì un giorno alla carica. Se lui non aveva capito male, lo si incolpava di aver fornito la lista delle 11 persone fucilate la notte del 15 dicembre 1943 e di aver personalmente diretto l'esecuzione di quei disgraziati. Se non che, per convincere un tribunale serio, un tribunale regolare, che lui, Carlo Aretusi, aveva davvero compiuto quelle due cose, steso la lista e diretto la fucilazione, sarebbero occorse prove, non semplici induzioni. Non si facciano chiacchiere sull'eccidio, perché dell'eccidio il sottoscritto è pronto ad assumersi intera e completa responsabilità. Pareva che lui avesse dichiarato alcuni giorni dopo la famosa notte. E poteva anche darsi che tali, in quella o altra circostanza, fossero state le sue parole. Ma con questo, prove ci volevano, ancora una volta. Di nuovo prove, giacché le frasi che lui poteva aver pronunciato allora a caldo, ad altro probabilmente non erano intese che a convincere l'alleato germanico circa la sincerità e la fedeltà incondizionate dell'Italia, Dopo l'8 settembre i tedeschi erano diventati i veri padroni del paese e ai tedeschi, si sa, non sarebbe costato niente ridurre ogni centro abitato italiano in un mucchio di macerie. Non erano dunque le parole dette per di più in pubblico perché altri le udissero e riferissero quelle che contavano. Contavano le azioni, i fatti, nonché le medaglie al valor militare che lui, durante la Prima Guerra Mondiale, si era guadagnato combattendo proprio contro quei tedeschi verso i quali lo si accusava ora di servilismo. Servile lui, figuriamoci, un ardito del Piave. E già che era stata menzionata l'assemblea della Cassa Agricola, perché non ricordare a questo proposito che l'onorevole Bottechiari, il socialista avvocato Mauro Bottechiari, il quale fino alla caduta del governo Badoglio aveva figurato come facente parte del consiglio d'amministrazione della medesima, era stato dimesso a Natale dal carcere di via Piangipane per diretto intervento di lui, Carlo Aretusi? Anche la maestra Trotti, altra socialista, era stata posta in libertà nella stessa occasione e peccato che adesso non potesse più venire a testimoniare in suo favore. Però l'onorevole Bottechiari godeva tuttora di ottima salute e dunque perché mai non si provvedeva immediatamente a convocarlo? Gran brava persona l'onorevole Bottechiari, leale, al di sopra di ogni meschinità e appunto per questo anche lui, fin dai lontani tempi del 20 del 22, aveva sempre avuto la massima stima, invitandolo a riferire quanto a sua conoscenza. La verità era che il costume politico odierno risultava dovunque in Italia troppo peggiore di quello di una volta. E rimaneva da dire un'altra verità ancora, che oggi in Carlo Aretusi si sarebbe voluto condannare soprattutto il reggente della segreteria federale fascista di Ferrara, assurto a tale carica il giorno successivo all'assassinio del console bolognesi. Per una ragione come questa, squisitamente politica, si chiedeva oggi la pelle di Carlo Aretusi. Se non che un tribunale serio, un tribunale regolare, un tribunale che non si fosse lasciato condizionare dalle passioni di parte, avrebbe subito compreso come la carica di reggente lui allora l'aveva accettata allo scopo esclusivo di impedire a tanti facinorosi responsabili di instaurare il regime del terrore. E difatti, qual era stato il primo provvedimento che lui aveva preso non appena nominato reggente, se non quello di restituire senza indugio le salme delle vittime alle rispettive famiglie? Ogni tanto, a onor del vero, il presidente si ricordava di interromperlo, richiamandolo blandamente all'ordine, e lui, dal canto suo, sempre pronto a staccare le mani dalle sbarre della gabbia, alle quali, parlando, non mancava mai di aggrapparsi, a distogliere gli sguardi fiammeggianti dal fondo della sala e a risedersi sulla panca in fila con gli altri imputati. Ma si trattava di tregue che duravano molto poco. Alla prima frase del pubblico ministero che non gli piacesse, o a qualche deposizione testimoniale da lui ritenuta erronea, o a un semplice mormorio del pubblico, ovvero soprattutto al minimo accenno che venisse fatto a una sua attiva presenza alla fucilazione della notte del 15 dicembre 1943, eccolo scattare di nuovo in piedi, riafferrarsi alle sbarre con impeto selvaggio, tornando a levare nella sala con la sua voce pesante, sgradevole, da vecchio padrone che gli altoparlanti di fuori diffondevano per largo raggio sulla città. Avanti i testimoni, urlava come impazzito, vediamo chi ha il coraggio di affermare davanti a me una cosa simile. Tacque immediatamente, tuttavia, la volta che vide farsi largo tra la folla, aggrappato con una mano al braccio della giovane moglie, con l'altra a un grosso bastone nocchieruto dal puntale di gomma. Magre come stecchi dentro le brache lazzuava, le gambe gli uscivano nello sforzo del passo in una specie di curiose falciate laterali. Pino Barilari in persona. Immobile come affascinato, da quel momento in poi non staccò più gli occhi dal farmacista, al quale e alla moglie Nino Bottechiari stesso, mai assente dall'aula, si era subito affrettato di trovare posto nel settore riservato ai testimoni. Era stato lui, del resto, a suggerire per lettera alla corte la convocazione del paralitico. si limitava a lisciarsi ad agio con la destra i capelli grigio ferro e insieme pensava. Lo si capiva bene, non smetteva un solo istante di pensare. Arrivò il turno di Pino Barilari. Sempre sorretto dalla moglie, si fece avanti e giurò regolarmente, seppur in un soffio. Ma un attimo prima che, rispondendo alla domanda del presidente, pronunciasse con chiarezza, quasi scandendola, quell'unica parola: dormivo, che di colpo, come la puntura di uno spillo in una vescica gonfia d'aria, aveva risolto in nulla l'enorme tensione generale. Il silenzio era assoluto, nessuno respirava e anche la moglie si era curvata, ansiosa, in avanti a scrutargli il viso. Proprio in quell'attimo, da parte di parecchi, fu veduto distintamente Sciagura rivolgere a Pino Barilari qualcosa come una rapida smorfia propiziatoria. E un ammicco, già quasi un impercettibile ammicco d'intesa. Words are spoken to be broken, feelings are intense, words are trivial, pleasures remain, so does the pain. Words are meaningless and forgettable. Can all